Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Oggi parliamo di tutto quello che dovete sapere sul vostro futuro e che nessuno osa raccontarvi. Lo facciamo con Walter Passerini. Buonasera Passerini. Buonasera a tutti, un po' ambizioso, no? Un po' ambizioso, tutto quello che volete sapere in pochi minuti e soprattutto in questo libro che si intitola... Senza pensioni, anche questo è un po' lapidario, ma è così. È un po' lapidario e anche un po' preoccupante, perché se il nostro futuro è senza pensioni, ecco, leggere forse questo libro di Passerini ci può illuminare su quelle che saranno le prospettive dell'economia, ma anche un po' preoccupare su quelle che saranno le nostre prospettive. Walter Passerini, giornalista, attualmente collabora con La Stampa, dopo essere stato responsabile dei supplementi del lavoro del Corriere della Sera del Sole 24 Ore, ha scritto con Ignazio Marino questo libro che ha una prefazione di Tito Boeri, che è lo stesso Tito Boeri, un esponente, appunto, professore alla Bocconi, grande esperto del sistema previdenziale, e mette in luce come, appunto, il sistema previdenziale abbia molti punti deboli, abbia molti talloni d'Achille, non solo il fatto della possibilità di essere sostenibile a medio-lungo termine, dati i cambiamenti della popolazione, ma anche quello di essere, in fondo, ingiusto nella divisione che lo stesso sistema fa nel destinare le risorse tra l'una e l'altra categoria di lavoratori. Quindi, Passerini, c'è un problema generazionale, c'è un problema professionale. Esatto, lei ha detto bene, c'è una sostenibilità sul breve, perché quando sentiamo il presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua che ci dice i conti sono in ordine in questo istante, ma tra qualche mese no, quindi o addirittura sicuramente no tra qualche anno. Quindi c'è un problema di sostenibilità sul medio e sul lungo, e questa deve essere una equa sostenibilità. Purtroppo il primo grande tema di senza pensioni è la bomba previdenziale che scoppierà sulle giovani generazioni. Questo vale un po' per tutte le professioni, anche se qualcuno si salva un po', sicuramente, lo so, notai e avvocati, anche i giovani un po' si salvano, tranne 50.000 avvocati che, non guadagnando più di 9.000 euro all'anno, non hanno nessuna contribuzione, ma nemmeno nessuna pensione, e quindi rischiano 50.000 avvocati di andare in povertà. Ma il problema grosso riguarda davvero un po' tutte le professioni. Devo dire che, diciamo che dal 1 gennaio 1996 il mondo è cambiato, Fabi, è cambiato perché è entrato in vigore un sistema di calcolo delle pensioni che si basa solo sui versamenti realmente effettuati. Ora, se prima i lavoratori pagavano 33% e portavano a casa un 70-80% del loro reddito, d'ora in avanti, pur continuando per esempio i dipendenti a pagare il 33%, porteranno a casa sicuramente non 70-80%, ma porteranno a casa il 33%. Questo è il punto vero. Quindi, ecco, ma questo non rende in fondo sostenibile il sistema, ovviamente a spesa dei pensionati? Beh, lo rende sostenibile nel momento in cui, primo, questo sistema andava affrontato almeno 10 anni fa. Secondo, bisogna comunicare, informare. Questa è la ragione di questo libro, è una denuncia, diamoci da fare, stiamo attenti, che credo che comunque gli organi decisori e la politica in particolare non ci stanno raccontando come stanno le cose, perché questo passaggio al contributivo davvero rischia di essere devastante. Perché? Perché se nel frattempo noi non costituiamo un canale integrativo e parallelo, noi davvero andremo in povertà. Cioè, abbiamo lavorato una vita, lavoreremo una vita, alla fine di questa vita pensiamo, speriamo, visto che le cose sono sempre andate così, che la nostra pensione sarà quella dei nostri nonni e dei nostri padri, ma così non è. E questo è il grido d'allarme sulla responsabilità che c'è nel raccontare, nell'informare e soprattutto nell'intervenire con un'azione diversa da quella del tamponamento, perché la cosa grave è che non si può fare cassa con la previdenza e tutti i provvedimenti tendono a mantenere al lavoro il più a lungo possibile chi già lavora, ma ai giovani e alle donne chi è che pensa? Ecco, quindi quello a cui bisognerebbe pensare è proprio questa crescita. Tra l'altro, nell'introduzione Tito Boeri dà quasi una responsabilità anche ai pensionati di attuare politiche per la crescita e propone di indicizzare le pensioni non tanto all'inflazione quanto alla crescita del sistema economico. Potrebbe essere un meccanismo per aiutare, appunto, una crescita di cui tanto si parla ma pochissimo si fa in Italia. Sì, questo è il problema centrale, ovviamente. Se la torta non aumenta, non c'è redistribuzione che tenga. Quindi il primo problema è quello di tornare a un rapporto, diciamo così, PIL-debito diverso, completamente diverso, e soprattutto crescere, diciamo, almeno del 1,5-2%, perché altrimenti la torta previdenziale davvero si restringe, non c'è nulla da spartire, non esistono pasti gratis e c'è gente che morirà di fame. Ma il problema, davvero, io credo che la politica abbia una questione di fondo, che è questa: ci si occupa davvero soltanto di procrastinare l'uscita degli attuali pensionandi, no? O lavoratori dai luoghi di lavoro per non aumentare la spesa, ma poco o quasi nulla si fa per alimentare le entrate del sistema previdenziale. Ora, per esempio, la questione del lavoro è la variabile indipendente della questione previdenziale, cioè bisogna portare le persone dentro il mercato stabile del lavoro, perché questo permette dei contributi che possono alimentare appunto il grande sistema previdenziale, le varie casse e soprattutto quella dell'INPS. Quindi si discute sulle uscite, ma non si discute abbastanza delle entrate, e discutendo di crescita si deve e si può ovviamente discutere anche delle entrate. E indubbiamente i giovani in questa prospettiva sono in fondo i meno garantiti. Siamo un paese che ha tante garanzie per chi è nel posto di lavoro, che ha tante garanzie per i pensionati attuali, almeno finché ci saranno le risorse, ma offre poche garanzie ai giovani che entrano adesso nel mondo del lavoro per le loro pensioni future, e soprattutto a coloro che devono trovare un lavoro in un'economia che è stagnante, in una prospettiva che è ancora stagnante. Quindi è anche un richiamo in fondo alla responsabilità di ciascuno, Passerini, questo libro. Sì, la miccia è accesa, il timer è innescato, ma nessuno fa niente di strutturale, davvero di strutturale. Certamente un intervento sull'età è legittimo, certamente un portare la soglia attorno ai 65 e anche più è legittimo, ma la responsabilità ci dice che dobbiamo far entrare stabilmente nel mercato del lavoro e della contribuzione i più giovani e anche le donne. Io vedo in sostanza che il vecchio sistema era un sistema a ripartizione, era un sistema che si basava sulla solidarietà, cioè chi lavorava sapeva che i propri contributi sarebbero andati a beneficio dei pensionati. Ora, se i giovani non entrano, se le donne non entrano, cioè se non c'è nuova alimentazione, non ci può essere, come dire, nessuna soluzione al tipo di problema. È per quello che richiamo continuamente alle ingiustizie che ci sono, perché per esempio chi è che oggi mantiene in particolare l'INPS? Chi sono le due categorie di persone che alimentano l'INPS? Guardi, sono gli stranieri che versano 7 miliardi di euro all'anno e non percepiscono se non per il 10% un ritorno di pensioni, perché si sa che lo straniero spesso sta qualche anno in Italia, poi torna nel suo paese, lascia pezzi di contribuzione in sonno che non andranno a nessuno, ecco. Quindi ci sono gli stranieri e soprattutto i precari, cioè tendenzialmente quei lavoratori intermittenti più giovani che pagano il 26-27% e che riscuoteranno chissà quando, tra qualche anno, se avranno una certa stabilità contributiva, il 26-27% del loro versamento. Quindi se le nostre casse in questo momento sono pagate dagli stranieri e dai precari, francamente è quanto di più lontano dal senso di giustizia e di solidarietà che era alla base del sistema ripartizione. Anche perché appunto è un sistema questo che non può durare a lungo, non possiamo sfruttare gli stranieri e i precari per far pagare le pensioni, bisogna che anch'essi possono contribuire, ma soprattutto avere una prospettiva. Tra l'altro in questo libro ci sono anche i calcoli delle pensioni future categoria per categoria, ed è interessante andare a guardare appunto queste categorie, perché si parla appunto di sistema pensionistico, ma abbiamo tanti sistemi pensionistici diversi. I professionisti hanno i loro sistemi, hanno le loro casse, hanno le loro garanzie, e molto spesso possiamo vedere anche che queste garanzie sono forse inferiori a quelle che dà il sistema poi complessivo. Grazie a Walter Passerini, autore insieme a Ignazio Marino del libro Senza Pensioni, edito da Chiare Lettere. Sono 192 pagine per 16 euro, un libro che illustra con molto realismo, con molta franchezza, la situazione attuale e soprattutto le prospettive future del sistema previdenziale. A tra poco per un altro consiglio di acquisto di libri. E dopo aver parlato di pensioni vi presento un altro libro direi completamente diverso. È scritto dal principe regnante del Liechtenstein, Hans Adam II, ed è Lo Stato nel terzo millennio, edito da IBL Libri, Istituto Bruno Leoni Libri. Un libro direi interessante perché delinea un po' i problemi dello Stato attuale, dell'organizzazione statale, delle costituzioni, di come si sono formati, di quali sono le competenze attuali degli stati. E Hans Adam del Liechtenstein, principe di un piccolissimo paese, forse fortunato anche perché è un po' un paradiso fiscale, diciamolo chiaramente, ecco, però è un principe illuminato, un principe che addirittura nella sua Costituzione ha messo la possibilità che i cittadini possano scegliere la forma repubblicana e quindi porre fine al principato, alla forma appunto monarchica. Comunque questo libro è interessante perché mette in discussione alcune logiche di fondo degli stati e mette in discussione soprattutto uno statalismo molto forte, un interesse dello Stato nell'economia che molto spesso spesso ha provocato più danni che soluzioni. Quindi stati più leggeri, stati capaci di dare delle regole precise, stati capaci di garantire la democrazia. Questo è il messaggio di Hans Adam II in questo libro, Lo Stato nel Terzo Millennio, edito dall'Istituto Bruno Leoni. Sono 250 pagine per 20 euro e con questo si concludono i nostri consigli di lettura per i libri di economia. Ringrazio Stefania Tagliaferri in redazione e Fabio Cantadori in regia. L'appuntamento è per sabato prossimo.